Crossover. Note senza confini. Un programma di e con Paolo Travagnin. Carissimi amici di Crossover Note Senza Confini, un festoso Aleger dal vostro Paolo Travagnin. Benvenuti nella nostra nuova riproposizione di Talenti Sommersi. Vi ricordo che Crossover fa parte di un progetto di più ampio respiro che condivide più mezzi e più media come la televisione, la radio, la carta stampata, il web e il satellite. Perciò attendo le vostre proposte. Noi viviamo e diamo voce alla vostra arte. Perciò Crossover attende proprio il vostro materiale, che sia esso CD, in DVD, in videoclips, videoarte, videopoesie, libri, didattica, insomma, le vostre fatiche nel cassetto possono avere veramente gratificazione grazie alla nostra, al nostro impegno. Grazie. Paolo Travagnin ai microfoni di Crossover, note senza confini. Per gli assidui frequentatori del web, il contatto giusto è music@vatiradio.va.

solo per farci brindare. Cameriere, mi porti il fulmine più rabbioso che ha fatto Dio. Non ho spiccioli, ho quattro lacrime, faccia un Cristo sul conto. Paolo Travagnin al microfono, Marco Di Battista alla regia. Crossover è quello che state ascoltando. Musica senza barriere e senza confini. Solo proposte di qualità da voi e per voi. Se volete essere dei nostri ed inviarmi il vostro materiale, rimanete sintonizzati. Stracca, tocca e mo chi non si dispragi, Deu da giro recco sta canzoni da vazzo strascicata articolata in maniera brusvaccata. Mi pare di un vago più adeguata gusto sentito ambivalente, chi non mi fai di mai mai mai premessamente. Mi fai d'andare a giro, commenti una demente, ci che ninguno una cosa e nai, poni in mente, poni. La sai detta dai, è nova de garaggio, che canto canta di sa, po vita su cifraggio, mancai, non da fatissa, te con qualcosa nai. Avo signoria probabilmente, po di barri pure un'esagerazione, custodeva così a struppia dura, dei gusta chiesi di dessa vrisciura, direttamente che ne mediazione, ed effettivamente canta accanto un versetto deuti d'un anno. Una vera poeta, maestra batturina, de canto un diodinai, non è cu di Sabina. Canta accanto un versetto a punau, a Cristo un incighetto in d'una successione, ravvicinata di rima baciata, con inversione un insagarlo felice dessa poesia, e s'anima mia, a pizzo città buongiorno, a pizzo. La Sabinetta, dai! De garaggio che canto canta di sa po vita su cifraggio mancai no da fatissa te con qualcosa nai. Se che mi interessa un bel nago della poesia legata se col fil d'argento, sei tu un poeta, anche se fai dei sentimenti con ti parole che girano in giro col movimento che fa il serpente. E allora spara la tua rima con la canna della mitraglia, se de no tirla a dre come la cua della vestaglia, che tanto ormai l'em capita l'alienda, ballu tondu ballu lestu cambia me alla faccenda con la metrica di Shakespeare. O quella dei Tazenda, ascolta bene, da Matrale la tua terra, la tua maestra, perché in Sardegna la poesia, le de fra della finestra. La sai detta, ma dai, la nuova de garaggio, che canto canta di sa, po vita su cifraggio, mancai, non da fatissa, te con qualcosa nai. Da decibigia e sa poesia commente mai può davri mai devo davri mu con una rima succiola che sgocciola apertamente dei gusto sentito ambivalente chi non mi fai di mai mai mai primessamente no no no non ten giù cane cantai sei troppo stracca tocca no no non ten giù cane cantai fatemi arreppare tocca la sai detta dai è nuova dei garaggio che canto canta di sa, po

per oggi Paolo Travagnini al microfono e Marco Di Battista in regia vi salutano e vi ringraziano della vostra compagnia. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Per avere informazioni sugli artisti e per poter mandare proprio le vostre opinioni potete scrivere a music@vatiradio.va oppure contattarci al numero verde 800 208 802. Un serioso Aleger dal vostro Paolo Travagnini.